Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo soprattutto nella seconda ora e a lungo delle ipotesi di manovra, dopo che ieri il Premier Matteo Renzi ha annunciato che la manovra sarà complessivamente di 27 miliardi. E poi c'è questo tema, ma non lo voglio esaurire adesso, dei 17 miliardi di flessibilità che avrebbe l'Italia a disposizione, pari a un punto percentuale di PIL. A noi non risulta, nel senso che risulta che questa flessibilità l'Italia l'abbia già in parte usata. Sono importanti, anche se Renzi ha detto non li userà tutti, perché sempre il Presidente del Consiglio ha anche annunciato che l'operazione sull'IMU sarà, cito testualmente, paro paro, e cioè a somma zero. Quello che verrà tolto ai comuni, 3 miliardi e mezzo di gettito IMU, verrà ridato ai comuni dallo Stato. E poi oggi il ministro Martina e anche il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, assieme al Premier Renzi all'Expo, hanno annunciato che si va verso un taglio di 1 miliardo di euro di tasse per il mondo agricolo, tra l'eliminazione dell'IMU e dell'IRAP agricola. È un impegno importante, però sono 3 miliardi e mezzo più un altro miliardo, fa 4 miliardi e mezzo. Buono il dato di oggi sul gettito tributario, più 1,1%, ha fatto il botto la Tasi, che rispetto all'anno di introduzione ha segnato un più 204%, a quota 2 miliardi e 440 milioni per quello che riguarda il periodo gennaio e luglio. Quindi di conti pubblici parleremo anche del, visto che si parlava di IMU, dell'IMU alla Chiesa, dell'apertura che ha spiazzato molti, devo dire anche i governi, questo e nel passato erano stati molto timidi con l'IMU sulla Chiesa Cattolica. Il punto è molto semplice, non si tratta, lo dico prima che partano i messaggi, di far pagare l'IMU ai luoghi di culto, perché non è possibile. Per quello che riguarda invece l'IMU su immobili di proprietà della Chiesa, ma non adibiti a culto, secondo l'ANCI queste tasse valgono tra i 500 e i 600 milioni l'anno. Solo a Roma ci sono quasi 300, sono 297 strutture alberghiere gestite da religiosi che offrono 13.000 posti letto. E allora c'è già una disposizione della Commissione Europea del 2012 che imponeva all'Italia di disporre il pagamento dell'IMU anche per gli immobili degli enti ecclesiastici, su un principio che altrimenti si tratterebbe di concorrenza sleale verso chi fa l'albergatore e offre appunto posti letto. E poi c'è stata invece la dichiarazione di ieri di Papa Francesco, che ha detto i conventi servono per motivi religiosi, se invece si trasformano in alberghi è giusto che paghino le tasse come tutti gli altri. Anche di questo parleremo del settore auto, perché oggi, domani, anteprima per la stampa della 66esima edizione del Salone dell'Auto che si tiene a Francoforte in alternanza con Parigi. Oggi dati del mercato auto in crescita, più 8,6% per il mercato auto europeo nel mese di agosto. Fiat Chrysler ha fatto meglio della media, più 11,5%. La 500 e la Panda permettono al gruppo Fiat Chrysler di dominare il segmento A, quello delle city car. Le due vetture assieme, Panda e 500, hanno praticamente il 28% dell'intero segmento A. E parleremo appunto di auto, ma anche vi sarà un accenno al salone nautico di Genova. Il 55esimo salone nautico inizierà il 30 settembre, dal 30 settembre al 5 ottobre, oggi è stato presentato. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. We'll be right back. E partiamo dai mercati, oggi positivi, positiva Milano più 1,80%, Parigi più 1,50%, Francoforte più 1, Londra più 1,16, gli Stati Uniti guadagnano lo 0,97% in questo momento, euro quota 1,12 sul dollaro. I titoli, molto bene Saipem più 4,31, Fiat Chrysler anche dopo i dati in matricolazioni auto in Europa più 3,23%, recupera Telecom più 3% come Tenaris e Azimut, Unicredit, Moncler e Atlantia guadagnano il 2,5%, Intesa San Paolo il 2,30 come Eni e la Popolare Emilia Romagna, il 2% lo guadagna Enel, Green Power ed ST Microelectronics, fronte opposto Autogrill perde l'1%, il Banco Popolare lo 0,34%. Partiamo come sempre nelle notizie in breve dall'economia internazionale. Il Brasile oggi ha annunciato un piano di austerità da 17 miliardi di dollari per rispondere alla crisi, al fatto che il Brasile sia in piena recessione economica. Dicevo, piano di austerità da 17 miliardi di dollari che prevede tra l'altro tagli alla spesa, aumento delle tasse, congelamento dei salari e delle assunzioni nel settore pubblico. Il piano comporta anche la soppressione di 10 ministeri su 39, al momento il Brasile infatti ha 39 ministeri, e questa decisione avrà come conseguenza anche il taglio di circa 1000 posti di lavoro. Tra l'altro c'è anche però una pesante sforbiciata alle spese sociali, quelle per gli alloggi e la sanità, che erano, diciamo, fino ad oggi il fiore all'occhiello del partito di Lula, nei periodi dei lavoratori, che è da 12 anni che governa, appunto, da quando Lula vinse la prima tornata elettorale. Allora, purtroppo l'aggiornamento delle tragedie dei migranti ve lo stanno dando anche i nostri GR. Faccio solo notare che è stato di emergenza al confine tra Ungheria e Serbia, che c'è stato un nuovo naufragio di migranti al largo della Turchia, 22 morti, la polizia appunto è al confine con l'Ungheria. Devo dire che tra l'altro si sta ragionando se avere un vertice straordinario del ministro degli interni, ma anche un consiglio europeo straordinario la prossima settimana. Angela Merkel e il suo corrispettivo austriaco lo hanno chiesto con forza. Oggi il vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel a Berlino, in un incontro con la stampa, ha detto: la crisi dei migranti minaccia l'Europa molto più della crisi dell'euro, e quindi il riferimento fu al 2011-2012 e poi alle ultime vicende greche. E sul tema dei migranti interviene in maniera poco ortodossa, mettiamo così, l'agenzia di rating, quella che dà i voti agli stati e ai debiti dei privati, Standard & Poor's, secondo cui la gestione della crisi dei migranti rappresenta la maggiore incognita per i rating sovrani, quindi per il voto sui debiti dei paesi dell'area euro, dell'Unione Europea, ed è un compromesso al ribasso, potrebbe indicare che restano problemi di governance, un fattore chiave per i rating sovrani. E poi aggiunge: una cattiva gestione può portare a populismo e xenofobia. Ora, io non mi ero mai accorto che l'agenzia di rating giudicassero anche le scelte di politica interna e politica estera, ma soprattutto lascia un po' perplessi questa frase che dice: se vi fosse un compromesso al ribasso, questo potrebbe indicare che restano problemi di governance in Europa. Ma l'Europa è un unico grande problema di governance, l'abbiamo visto nella gestione della crisi greca, l'abbiamo visto nella gestione dei migranti, cioè la governance, che vuol dire chi decide, come si decide, chi ha il potere, chi controlla chi ha il potere, è il problema di questa Europa solo monetaria e solo ragionieristica, perché poi ogni Stato fa per sé, scusatemi, non si riesce a trovare, o se non difficilmente, una linea comune, e poi il giorno dopo c'è un passo indietro, come abbiamo visto accadere ieri con la Germania. Ma insomma, strano che l'agenzia dica: se dovesse esserci un compromesso a ribasso, vorrebbe dire che l'Europa ha un piccolo problema di governance. Ce l'ha già, cara Standard & Poor's, per cui, e comunque non capisco quello che c'entri la gestione dei migranti e anche il populismo che ne potrebbe derivare se gestita male con il giudizio sul debito. Allora buttiamoci dentro tutto. alcuni ascoltatori fanno notare che ai tempi della Grecia, cioè tra giugno e luglio, si fecero tanti di quei consigli europei, di quelle riunioni straordinarie, potrebbero farlo anche adesso senza perdere troppo tempo. È vero che c'era un altro tempismo, diciamo, con la Grecia, ma questo indica anche la difficoltà, perché poi tu indici un consiglio straordinario per arrivare a una decisione. Se lo convochi per restare sulle tue posizioni, amplifichi il fallimento, sottolinei ulteriormente il fallimento. Ecco il perché dell'imbarazzo nel non riuscire a convocarlo subito, perché il timore è di arrivare a nulla di fatto e quindi di dichiarare verso tutti l'incapacità dell'Europa di avere una posizione comune. Comunque andiamo avanti. L'Italia, dicevo, ne parleremo nella seconda ora del programma, ma ieri il Premier Renzi, poi oggi l'ha ribadito all'Expo durante la giornata nazionale dell'agricoltura organizzata da Coldiretti, ha detto che la manovra sarà di 27 miliardi, non aumenterà nemmeno una tassa, stimiamo una crescita più alta e venerdì alzeremo la stima allo 0,9% anche per il 2016. Ricordo che la stima del PIL quest'anno era prevista allo 0,7%, il governo lo alzerà allo 0,9% perché le cose vanno meglio, e anche sul 2016 sarà rivista leggermente a rialzo rispetto all'1,4%. E poi ha detto: dopo il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea abbiamo la possibilità di avere fino all'1% di flessibilità sul PIL, quindi 17 miliardi. Manovra finanziaria da circa 27 miliardi di euro, vado così. Non abbiamo da sforare nessun conto, anzi, dal prossimo anno scende il debito. Io sono contro le politiche di austerity, tutta la visione sul rigore, però l'Italia ha un problema in più rispetto agli altri, e cioè che una classe politica intera, quella prima di noi, ha caricato i costi della gestione quotidiana sulle generazioni successive. Per le regole europee, per me eccessivamente dure, ma che noi rispettiamo, noi potremmo avere uno spazio più correttamente di deficit dell'1,4% il prossimo anno. Cosa significa? Significa che noi abbiamo un certo tot di soldi da poter spendere, ma grazie al lavoro svolto da Padoan e tutti noi che gli abbiamo dato una mano nel semestre italiano di presidenza, abbiamo la possibilità di avere fino all'1% in più, quindi 17 miliardi, fino a 17 miliardi, 17 miliardi di flessibilità. Quindi noi utilizzeremo, e non del tutto, le clausole della flessibilità. Quindi non c'è nessuno sforamento. Vabbè, ripeto, a noi risultano conti un po' diversi, nel senso che il governo ha già usato questo margine, ma ne parliamo nella seconda ora del programma. Ancora due notizie prima di arrivare all'IMU, non quella che Renzi vuole levare, ma quella che il Papa è disposto a pagare, mettiamola così. La prima riguarda le entrate fiscali, appunto, dicevo, più 1,4% boom di Tasi. Il governatore della Banca d'Italia Visco ha detto: i dati recenti sull'attività economica e sulla spesa delle famiglie vanno nella direzione di confermare il miglioramento complessivo delle prospettive di crescita. Oggi poi commento più che positivo del direttore generale del debito pubblico, la potentissima, lo dico con massimo rispetto, Maria Cannata. È lei che poi deve collocare il debito italiano presso gli investitori e trovare qualcuno che ci finanzi il debito. Maria Cannata ha detto: la prima parte dell'anno è stata estremamente positiva, c'è stato un calo e ci potrebbe essere una probabile riduzione da parte degli investitori cinesi, ma allo stesso tempo abbiamo visto un ritorno degli investitori dal Giappone, cioè di giapponesi, di solito sono fondi pensione o fondi di altro genere che comprano BOT e BTP italiani. E ha aggiunto: la Cannata, è troppo presto per vedere se c'è stata una frenata da parte dei cinesi, abbiamo i dati di luglio, ci mancano ancora i dati di questi ultimi due mesi. Una buona notizia ancora arriva dal calo dei fallimenti in questo paese, meno 11% secondo l'osservatorio Cerved nel secondo trimestre dell'anno. Un dato positivo, anche se si colloca su un livello altissimo di fallimenti aziendali. Comunque, fra aprile e giugno le imprese che hanno aperto una procedura fallimentare sono state 3.800, in diminuzione dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2014. È il calo più forte anno su anno dall'inizio della crisi. E l'ultima notizia positiva riguarda il mondo del lavoro, perché l'Istat oggi fa notare come siano scesi gli scoraggiati, cioè quelli che non cercano nemmeno il lavoro, non finiscono nemmeno nelle liste di disoccupazione, 100.000 in mese, in meno. Il calo si è registrato nel secondo trimestre, mentre sono arrivati anche dei segnali positivi dal sud, per quello che riguarda gli occupati, 120.000 unità, persone in più, anche se guardando i tassi di disoccupazione il divario continua ad aumentare tra il sud e il nord del paese. È sempre l'Istat, nel secondo trimestre si è registrato un miglioramento degli andamenti del mercato del lavoro e anche della produttività, che è risultata sopra lo zero, anche se per un solo decimo, più 0,1%. Poi invece in cauda venenum, o meglio la nota non così positiva, la ricerca del lavoro in questo paese è affidata soprattutto ai canali informali, tradotto vuol dire amici, parenti. La raccomandazione e la segnalazione sono due cose molto diverse. Segnalare una persona brava è cosa buona e giusta, raccomandare uno solo perché è figlio di o è parente o per motivi politici di altro genere ed è pure incapace è assolutamente una cattiva pratica di questo paese. Ma fa notare l'Istat, l'88,9% delle persone si rivolge ad amici, parenti e conoscenti, con un aumento di 2 punti percentuali rispetto allo stesso anno, allo stesso periodo del 2014, e su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. L'Istat ha diffuso un nuovo comunicato sui dati trimestrali del mercato del lavoro e unisce per la prima volta i dati degli individui che cercano un'occupazione a quelli delle imprese che invece sono in cerca di personale. Ancora una volta ci sono dei segnali da cogliere, anche se purtroppo siamo sempre nel mondo dello zero virgola. A cominciare da quello per il sud, per l'Istat ci sono 120.000 posti di lavoro in più, pari a una crescita tendenziale dello 0,9%, anche se probabilmente è ancora un rimbalzo dopo anni di segni meno e di caduta verticale dell'occupazione, di aumento esponenziale della disoccupazione. C'è un dato, tuttavia, che può essere di conforto per un cambio di tendenza possibile nel mezzogiorno. Il numero degli inattivi per scoraggiamento, cioè quanti non cercano più nemmeno un impiego perché del tutto sfiduciati sulla possibilità di trovarlo, sono calati di 114.000 unità. È significativo anche che sia in calo la disoccupazione di lunga durata, cioè quella di quanti cercano un impiego da più di un anno. In 12 mesi si è passati dal 61,9% al 59,5%. Tuttavia si tratta di un bacino di persone che, tradotto in cifre assolute, è di 1,8 milioni di unità. È importante che si sia registrato un aumento di ore lavorate, oltre che un aumento degli occupati in senso stretto. Il sistema produttivo sta aumentando la sua efficienza interna ed è per questo che anche la produttività è in crescita dello 0,1%. È in crescita anche il potere d'acquisto da parte dei lavoratori, con un aumento delle retribuzioni contrattuali dell'1,1% e di quelle di fatto dell'1,3%. Sono dinamiche superiori a quelle dell'inflazione. Siamo purtroppo, come abbiamo visto, ancora nel mondo dello 0, o poco più. Meglio di niente, non c'è che dire, ma perché quel refolo diventi un nuovo vero soffio vitale occorre ancora qualcosa di più. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parleremo anche degli esodati. Oggi purtroppo, lo dico per gli esodati, non c'è nessuna novità, se non sono più notizie di carattere politico, di scontro politico. La Lega, i senatori della Lega che hanno occupato i banchi del governo, la seduta è stata sospesa e comunque insoddisfatti dopo l'incontro al MEF, al Ministero dell'Economia e Finanze. C'è quella frase obiettivamente completamente fuori luogo, non si può neanche catalogare come battuta. Non bisogna mai dimenticarsi di non personalizzare. La legge ha un nome e uno contesta la legge, e sulla legge Fornero ci siamo espressi in tutti i modi possibili. Ricordo che l'ex ministro, allora era ancora ministro, ai nostri microfoni disse: ho sbagliato sugli esodati. Fu una cappella terribile clamorosa. Detto ciò, non si può accettare che un leader politico che si presume voglia diventare leader politico del centrodestra, fosse anche il centrosinistra, cambierebbe poco, dica cancelliamo la Fornero, e non solo come legge, ma proprio, dai, non si scherza su queste cose in un paese che ha avuto anche gli anni del terrorismo, e ahimè proprio sui temi del mercato del lavoro i terroristi hanno colpito anche in anni più recenti. Quindi va bene la battaglia politica, ma non è che devi sempre spararla grossa per finire sulle agenzie, tanto ci finisci comunque. E il tema degli esodati è un tema serissimo, in cui fu fatta una cavolata mostruosa da parte dell'ex ministro Fornero, ma lì uno deve limitarsi come atteggiamento politico, dai. No, poi non aspetta a noi dar consigli su come fare campagna elettorale all'eurodeputato Salvini. Facciamo notare che se pensa in questo modo di prendersi le classi medie di questo paese, deve andare a rileggersi un attimo la storia di questo paese. Ma restiamo sull'economia, perché parliamo dell'IMU alla Chiesa, ma partiamo dalla Caritas, così faccio contenti tutti quelli che dicono che non critichiamo mai Renzi. Non è vero. Allora, la Caritas dà un giudizio molto duro sul governo Renzi, e lo fa non perché abbia fatto qualcosa di male, ma perché non ha fatto a sufficienza. Nel senso che la Caritas nel rapporto 2015 fa notare, il rapporto delle politiche contro la povertà in Italia, che è vero che la povertà assoluta in Italia per fortuna si è fermata nel 2014, cioè non ha continuato a crescere, si è fermata al 7%. Però è anche vero che da quando è scoppiata la crisi, cioè dal 2007 ad oggi, il numero di poveri in senso assoluto sono passati da 1.800.000 a 4.100.000. Ecco perché la Caritas dice che il governo Renzi, che pure ha introdotto qualche avanzamento marginale nel sostegno al reddito, immagino che si riferisca agli 80 euro, non si è finora discostato in misura sostanziale dai suoi predecessori e ha confermato la tradizionale disattenzione della politica italiana nei confronti delle fasce più deboli. E poi c'è la Chiesa intesa come IMU. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, nella versione, diciamo, di vaticanista immobiliare. Buonasera. Buonasera. Non so se esiste il vaticanista immobiliare. Però insomma, ha sorpreso tutti la dichiarazione di ieri di Papa Francesco. Al di là del messaggio interno al mondo ecclesiastico, che non sfugge a nessuno, perché è un altro tassello, diciamo, di questa di questo atteggiamento profondamente riformatore, poi può piacere o no, ma oggettivamente lo è. Dopo il metodo, la pubblicità, vorrei capire quanto perdiamo nel non tassare, e su questo non solo l'Unione Europea, ma anche modestamente chi vi parla ha sempre detto non ha senso, non è accettabile non far pagare l'IMU a alberghi di proprietà della Chiesa, perché di questo si tratta. Quando tu vedi che solo a Roma la Chiesa Cattolica gestisce 13.000 posti letto. Dopo il meteo. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ha ragione l'ascoltatore che dice: per dovere di cronaca avresti dovuto citare il Movimento 5 Stelle. Ha ragione. A che proposito? La Caritas, nel rapporto che prima ricordavo sulla povertà in Italia, interviene, come ripeto, dicendo che il governo Renzi ha introdotto qualche avanzamento marginale, ma non si è discostato in misura sostanziale dai suoi predecessori, cioè ha fatto poco per le povertà in Italia, e l'unico partito che ha delle proposte concrete, lo dice la Caritas, è il Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza, per cui questo è il motivo per cui viene citato. Ha ragione l'ascoltatore, ci mancherebbe. I just can't take my eyes, can't take my eyes off you. Gianni Trovati, al di là dell'aspetto religioso, politico, di opportunità, uno potrebbe tagliare la testa al toro e dire: guardate che la Commissione Europea già nel 2012 ci ha imposto di disporre il pagamento dell'IMU anche per gli immobili degli enti ecclesiastici e non profit, perché ci sono anche adibiti a attività commerciali. Perché diceva: se no, state favorendo, quindi concorrenza sleale, aiuti di Stato, state favorendo un soggetto rispetto all'albergo che è accanto e che paga tutte le tasse sull'immobile. Ma dal punto di vista del gettito? Dal punto di vista del gettito rimane un'incognita miliardaria, perché poi le regole attuative che sono state fatte per applicare appunto questo principio che veniva chiesto dalla Unione Europea, cioè chiunque svolga attività con modalità commerciali, chiunque esso sia, deve pagare le tasse, perché appunto questo impone le regole della concorrenza. Le norme attuative hanno molto complicato la cosa, nel senso che per quanto riguarda gli alberghi, cioè l'esempio citato dal Papa, viene considerata attività non commerciale l'attività appunto di ospitalità che pratica tariffe inferiori al 50% della media applicata per attività analoghe nel territorio. Allora, tutto questo è basato su autodichiarazioni, le regole per le dichiarazioni sono arrivate solo nel 2014, quindi di gettito sostanzialmente finora non ce n'è stato, ma naturalmente una regola di questo tipo rende anche complicato per il comune andare a contestare il mancato pagamento, perché tu devi verificare, certificare in modo che regga in giudizio davanti ai giudici tributari il fatto che quell'albergo lì, quella struttura ricettiva lì ha tariffe superiori alla metà della media territoriale. Cioè, allora vediamo se ho ben capito, perché questo è un paese in cui perfino il Papa scavalca il governo che avrebbe interesse, diciamo, nell'ottenere questi soldi, perché la stima che ho visto circolare su quanto potrebbe gettare, buttare dal punto di vista del gettito, la tassa sugli immobili della Chiesa non adibiti a luoghi di culto varia tra i 500 e i 600 milioni di euro. Sì, però, ci sono anche stime più alte. Però il problema è quello che tu ricordavi, e cioè che in questo paese, per complicarsi la vita, tu praticamente vieni classificato ad uso commerciale. Poniamo che ci sia una struttura alberghiera, o meglio una struttura della Chiesa che abbia anche una foresteria, come spesso avviene, no? Dove tu ci sono a Roma, ma ci sono in tantissime altre città. Anni fa mi ricordo che dormii proprio a Venezia in una struttura simile, in pieno centro. Ci sono in quasi tutte. Che sono come degli alberghi, non di gran lusso, ma normali, diciamo. Ma non è questo il punto. La legge dice: se la tariffa che tu chiedi supera del 50% il 50% della somma media chiesta da attività analoghe, cioè se io riesco a dimostrare che gli alberghi in quella zona di Venezia o di Roma o di Firenze costano in media per una stanza classificata 3 stelle, poni 100 euro, e tu stai chiedendo, se ho ben capito, 60 euro, a quel punto sei commerciale, quindi paghi l'imposta. Se chiedi 49, cioè meno del 50%, non sei commerciale e sei esente. Non lo dice la legge. La legge dice: chi fa attività commerciale paga. Poi in Italia ci sono tanti regolamenti attuativi, circolari, che ci fregano sempre. Ci fregano anche perché delle volte non arrivano. Comunque, quindi ci dovrebbe essere qualcuno che va a controllare la media del tariffario chiesto in quell'area, immagino. Area che però nessuno sa quanto deve essere. Cioè, è Venezia, è Firenze centro, è Firenze città. È la provincia. È quell'area specifica di Firenze, perché sappiamo tutti che... Andare a vedere quella che è la media, è già mi diverto, perché poi sapendo che giustamente gli albergatori hanno tariffe last minute, tariffe in periodo di picco, tariffe in periodo di morti, tariffe per gli amici, giustamente, cioè uno è sul mercato e vede la camera data al 50% in meno perché hai avuto delle disdette, la camera è venuta al 50% in più perché è il periodo del Festival del Cinema a Venezia piuttosto che del Giubileo o quant'altro, auguri. E poi dovresti anche a quel punto contestare, sempre che nel frattempo l'immobile ecclesiastico non venda le camere a 49, perché così te frega. Con un criterio devi contestarlo, con un criterio abbastanza solido da reggere la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale e la Cassazione. Beh, facile. Allora, però quest'estate il Comune di Roma ha contestato alle strutture alberghiere religiose arretrati IMU per 19 milioni di euro. Come ha fatto? Sì, perché ci sono anche realtà finora esentate dall'imposta per le quali non è difficile vedere che le tariffe medie sono molto alte, perché soprattutto in centro Roma, all'interno di queste strutture ricettive, ci sono anche strutture ricettive di livello molto alto, con tariffe molto alte, per le quali sarebbe sostanzialmente impossibile dimostrare il contrario. Ricordiamo però che un conto è il primo passo, cioè il comune che contesta il mancato pagamento dell'imposta, un conto è l'ultimo passo, cioè quando alla fine del contenzioso la Cassazione dice che il comune ha ragione e il mancato contribuente ha torto. Allora, suggerisce un ascoltatore di utilizzare booking.com, adesso non voglio fare pubblicità, uno può usare anche TripAdvisor, poi non so, altri siti, siti più celebri. Trivago, bravo, così non veniamo attaccati di pubblicità occulta. Sì, occorre che sia messo nella legge, o comunque che bisogna fare lo screenshot giorno per giorno di tutti i siti, vedere la media. Sembra che i comuni italiani siano perfettamente in grado di farlo. Attrezzati, hanno le competenze per farlo, e vabbè, mi sembra una follia. Comunque, fai pagare l'IMU una volta che uno affitta, ha le camere in affitto, per la quota a parte. Se tu hai un edificio ecclesiastico, che in parte è un convento, in parte è un monastero, poi c'è la chiesa e poi c'è la foresteria, per la quota della foresteria fai pagare. Lasciamo stare quando l'edificio è utilizzato in un'attività commerciale solo per una quota dell'anno, perché lì si entra in un calcolo logaritmico che è meglio risparmiarsi. Però, perché c'è anche questa eventualità, certo. Giusto? Per cui mi sembra che tutto sia fatto per fare in modo che il comune neanche ci pensi a iniziare una battaglia con la chiesa, a meno che non sia un comune particolarmente efficiente, che dice e riesce a dimostrare appunto che questa è la media ed è arrivare poi fino in commissione tributaria, perché lì il Papa è stato molto più chiaro della circolare ministeriale. Sì, ma anche molto più ottimista della nostra burocrazia. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore del Traffico. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, commentiamo la borsa, più 1,60%, Parigi, questo è Milano, Parigi più 1,1, Francoforte più 0,50, Londra più 1, l'America più 1%, euro su dollaro 1,12, Autogrill meno 0,90 e A2A meno 0,35 sono i peggiori, bene, Saipem più 4,31, Azimut più 3,10 come Telecom Italia, poi Tenaris più 2,80 come Fiat, di cui parleremo tra un attimo. Atlantia più 2,5 come Popolare Emilia Romagna e Unicredit Moncler, il 2,20 lo guadagna Eni e anche ST Microelectronics. È vero che il petrolio è salito un po' oggi a $44.7 al barile dell'1,7%. Comunque, al di là di Fiat, ripeto, di cui parleremo oggi, giornata in evidenza per i titoli legati al settore petrolifero. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Andrea, petrolifero e lusso. Sì, certamente il settore petrolifero ha beneficiato non solo del movimento generale degli indici, ma anche di questo movimento del petrolio con il contratto ottobre a New York, che è salito a $44.6 al barile, si è apprezzato dell'1,5%, e abbiamo visto non solo a Piazza Affari con Saipem in particolare, che doveva recuperare terreno dopo alcune sedute di flessione più 4,3%, ma anche con Tenaris più 2,8% e soprattutto con una Eni tornata a viaggiare vicino ai 15 euro per azione, salita del 2,2%, ma anche sulle altre borse europee, totale è stata la migliore a Parigi. Per quanto riguarda il settore lusso, molto bene Moncler, più 2,5%, hanno recuperato terreno anche Ferragamo più 1,2% e Tozza più 0,5%, ma attenzione, un recupero più che altro tecnico, perché dai conti di Prada, che oggi oggi erano attesi, Prada è quotata a Hong Kong, sono arrivati segnali contrastanti, bene le vendite in Europa, ma il mercato asiatico soffre, per cui l'utile di Prada e anche il margine operativo lordo è calato, e gli operatori si aspettano che diversi saranno i soggetti del lusso a dover mettere mano a importanti operazioni di controllo dei costi per mantenere alta la marginalità, ma anche il mercato asiatico farà ancora soffrire, costituirà un elemento di incertezza. Allora, invece per quello che riguarda i bancari, oggi Monte dei Paschi ha guadagnato l'1,76% nel giorno in cui Massimo Tononi è stato nominato, come atteso, nuovo presidente del Monte dei Paschi, 98% delle azioni rappresentate in assemblea, sostituisce Alessandro Profumo che si era dimesso lo scorso 24 luglio. Con decorrenza dal 6 agosto, il suo nome era stato proposto sia dalla Fondazione che da BTG Pactual che da Fintech. Il primo dossier nelle mani di Tononi sarà la fusione o l'aggregazione di Monte dei Paschi con un'altra banca, lo ha ribadito anche il presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Marcello Claric. Lo stesso numero uno del Monte dei Paschi, Fabrizio Viola, ha detto: attenzione, la banca centrale ha indicato una strada e non abbiamo motivi per essere contrari né per pensare che la banca centrale possa cambiare idea. Questo per quello che riguarda il Monte dei Paschi. Vanno bene oggi le popolari, oltre c'è anche la Popolare Emilia Romagna più 2,50%, vabbè, Intesa San Paolo più 2,12%, la Pop Milano più 1,50%. È girata voce, Andrea, che vi possa essere un'accelerata nella trasformazione delle popolari in SPA, quindi fusione e aggregazione. Sì, un po' si ragiona sui tempi di questa operazione, che chiaramente sarà strettamente collegata poi a quella che è l'operazione, l'operazione che tutti si aspettano, cioè quella di consolidamento del settore, quindi le indiscrezioni sui tempi più o meno ravvicinati sulla trasformazione delle popolari, cioè che dice la fine del 2016, trasformazione in SPA, c'è chi dice fine del 2016, qualcuno scommette anche un po' prima per accelerare nel processo, alimentano la speculazione, chiaramente si parla di tutte le combinazioni possibili tra i vari istituti, forse quella tra UBI e Banco Popolare è quella a cui gli operatori danno maggiore credito, fatto sta che il settore si muove molto su queste notizie, oggi Biper ha guadagnato il 2,5%, la Banca Popolare di Milano ha guadagnato l'1,5%, e quindi in una giornata molto positiva, abbastanza positiva diciamo così per il settore bancario nel complesso, e invece molto positiva per le banche europee in generale. Ancora Telecom, dopo tre sedute consecutive di calo è rimbalzata, è calata parecchio, lo ricordiamo, per le stime che arrivavano dal Brasile come economia, e Telecom ha in Brasile diciamo l'altro grande mercato oltre a quello italiano. Telecom Italia, Andrea, e poi chiudiamo con le utilities. Sì, due fattori avevano influenzato Telecom, non solo il Brasile ma anche lo stop arrivato all'Unione Europea all'operazione di integrazione in Danimarca tra Telenor e Teliasonera. Il calo dei giorni scorsi è stato parzialmente compensato al più 3% di oggi, anche perché è uscita un'indiscrezione riportata al Sole 24 Ore. Ricorderete che Telecom Italia ha quotato pochi mesi fa in WIT, la società delle torri di trasmissione del segnale, di cui controlla il 60%. Si starebbe studiando una riduzione diciamo del controllo, con un ingresso accanto a Telecom come azionista forte di un nuovo investitore. Questo porterebbe a un incasso importante per Telecom Italia e il mercato lo ha apprezzato. Come tu accennavi, settore dei servizi pubblica utilità in forte sofferenza in tutta Europa, e il motivo arriva soprattutto dalla Germania, hanno perso molto E.ON e RWE, ci si aspetta delle forti svalutazioni nel caso di dismissione e di chiusura delle centrali nucleari, come già in parte annunciato E.ON nei giorni scorsi. Questo ha influenzato EDF in Francia e tutte le utility anche in Italia. Poi fortunatamente Piazza Affari sul finale ha recuperato e anche Enel è tornata in positivo chiudendo a più 0,8, ma ha vissuto gran parte della seduta in negativo. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, c'è il GR24, poi migliori peggiori e poi Fiat e anche i conti di questa manovra finanziaria per come l'ha annunciata ieri Renzi. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo le dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30, solo su Radio 24. Questo non credo. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso i migliori e peggiori, poi Fiat e la manovra del governo, quello che si è capito dalle dichiarazioni di ieri, soprattutto da parte del premier Matteo Renzi. Dicevamo migliori e peggiori in assoluto per quello che riguarda il listino: Safe Bag più 10,30, TAS più 8,90, Saipem più 4,31, fronte opposto a Cotel Group meno 7,11, E.ON meno 6,30, Gala meno 4,60 e la Doria meno 3,32%. Fiat bene sui dati delle immatricolazioni auto, più 8,6% nei primi 8 mesi in Europa. Per quello che riguarda Fiat fa più 11,5 con il 500 e la Panda, dicevamo che dominano il segmento A, quello delle city car, delle macchine, diciamo, dell'utilitaria da città. Per quello che riguarda però Fiat, novità arriveranno anche dal salone dell'auto di Francoforte oggi e domani, anteprima per la stampa, poi apre al pubblico. Ricordiamo che si tiene in alternanza con il salone di Parigi e saranno presentati, se ho ben capito, 210 nuovi modelli. Siamo in collegamento con Francoforte, dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore Andrea Malan. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti, non elenco tutti i 210 modelli. No, anche perché fra 20 minuti il programma termina, per cui dovresti farne praticamente 10. Per le marche italiane, per le marche italiane c'è la Giulia che abbiamo già visto a giugno e la Ferrari 488 Spider, queste sono le principali novità. Ma sappiamo che, e lo dico direttamente, la novità più grossa potrebbe arrivare da Detroit, dove è rimasto Sergio Marchionne, che quest'anno non è venuto a Francoforte, perché Marchionne sta negoziando col sindacato americano il nuovo contratto di lavoro. Ecco, spieghiamo come funziona, nel senso che negli Stati Uniti il potentissimo sindacato dei lavoratori del settore auto ha scelto Fiat Chrysler come, noi useremmo dire, pilota, o insomma, come... Sì. Diciamo, loro dicono target, cioè target. Bersaglio, ma in realtà è il pilota sul quale poi si modelleranno gli altri due contratti. Cioè loro possono scegliere con quale gruppo iniziare le trattative per il nuovo contratto. Sono tre i gruppi, esatto. Ford, General Motors e Fiat Chrysler, hanno scelto Fiat Chrysler. E quello che uscirà dalle trattative sarà poi lo scheletro, il paradigma per i contratti anche con le altre due, se ho ben capito. Assolutamente, la cosa è stata oggetto di molte illazioni sul perché abbiano scelto Fiat. Da un lato ci si è chiesti come mai loro, visto che Marchionne è notoriamente il negoziatore più tosto del gruppo, dall'altro però è vero che Fiat Chrysler ha il costo del lavoro più basso dei tre, grazie al fatto che dopo la bancarotta del 2009 ha assunto moltissimi lavoratori a livello più basso, perché dopo il 2009 sono stati introdotti due livelli diversi di salario, per cui in questo momento ci sono operai in Fiat Chrysler, ma anche in GM, che guadagnano poco più della metà degli altri. Questo è uno dei grossi problemi sul tappeto, cioè i sindacati ovviamente vorrebbero eliminare questo doppio livello, le aziende anche, il problema è mettersi d'accordo sul livello al quale far convergere i salari. Attualmente i negoziati sono ancora in corso, potrebbero chiudersi anche oggi in giornata, non è detto, vanno avanti ad oltranza con una procedura che non è troppo diversa da quello che succede da noi. Ricordiamo, e questo è importante, che il sindacato americano è anche il maggior azionista di General Motors, ha una quota del 9% circa attraverso il famoso fondo VEBA. Questo vuol dire che di fatto Marchionne in questo momento è seduto al tavolo col maggior azionista di GM, su cui Marchionne vorrebbe un'offerta. Lo so, ma mi sembra che lì le distanze siano ancora alte, no? Visto una dichiarazione di nuovo della numero uno di General Motors, sì, che dice... Il management di GM resiste, Marchionne credo che voglia puntare molto su questo suo rapporto anche personale con i sindacati. Diciamo che se riuscisse a ottenere un accordo soddisfacente per entrambi sul piano sindacale, potrebbe essere un buon viatico, certo, per poi convincerli della bontà anche della fusione con GM. Torniamo a Francoforte con due ultime approfondimenti. Uno riguarda Alfa Romeo, perché abbiamo visto parecchie dichiarazioni di Harald Wester, che è il responsabile del brand, del marchio Alfa Romeo. L'altro riguarda proprio la barra, e cioè la numero uno del gruppo General Motors, che era Francoforte per Opel, visto che loro controllano anche Opel. Andrea. Dunque, Wester ha illustrato in grande dettaglio la Giulia, ha annunciato per la prima volta il prezzo di vendita, il prezzo base sarà di 72.000 euro, ricordiamo, per la versione quadrifoglio verde, quindi quella da oltre 500 cavalli, classico mostro. Ci siamo tutti guardati come la versione base è a 72.000 euro. E con gli optional cosa vuoi? Dimmi, prego. No, con gli optional arriva a 90.000, con l'optional arriva a 90.000. Diciamo che le versioni vere, tra virgolette, quelle che potremmo comprare anche noi, una vettura media, medio-grande, normale, arriveranno l'anno prossimo e le vedremo a Ginevra. Per quanto riguarda Mary Barra, tornando al discorso di prima, ha ribadito che di fusioni con Fiat il management di GM non vuol sentir parlare, ha ribadito che loro vanno per la loro strada, vogliono investire in nuove tecnologie, la Opel la tengono, ci scommettono sopra, promettono che l'anno prossimo sarà in pareggio, approfittando anche, hai detto tu, di un mercato europeo che sta riprendendosi in maniera abbastanza significativa. Grazie Andrea Malani in collegamento con noi da Francoforte. Sempre a proposito di saloni, ma in questo caso il 55esimo Salone Nautico di Genova, oggi presentato, si svolgerà dal 30 settembre al 5 ottobre, 760 espositori. Ricordo che la nautica italiana è stata distrutta come mercato interno, ce lo raccontò l'anno scorso il presidente del settore, un 95% in meno di vendite da quando è scoppiata la crisi di nautica in Italia, però tutto quello che ha tenuto lo tiene sui mercati esteri, 2 miliardi e mezzo di fatturato, prima della crisi del 2007 il fatturato superava i 6 miliardi di euro. Comunque, organizzato anche quest'anno da Ucina, Confindustria Nautica, coinvolte sia l'ICE che il Ministero dello Sviluppo Economico, che la Regione Liguria e il Comune di Genova, 760 espositori per 1000 imbarcazioni, 140 operatori esteri. Sulle prospettive del settore, il nostro Andrea Ferro ha sentito proprio il presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla De Maria. La nautica in Italia e il salone nautico sono un tutt'uno, perché il salone nautico è la vetrina dell'industria manifatturiera italiana. Fra due settimane scopriremo un salone di Genova che abbiamo voluto chiamare del rilancio. A marzo, durante la prima conferenza stampa del salone, perché già si avvertivano segnali di ripresa, timidi, certo, ma comunque segnali di inversione di tendenza, che nei sei mesi successivi questi segnali positivi sono stati confermati. Quindi affrontiamo un salone di Genova, tutti gli operatori lo affrontano con maggiore ottimismo. Dopo tantissimi anni molto molto difficili, in cui si può solo ammirare la capacità delle aziende di resistere, quindi di lì ripartiamo con aziende che possono riprendere fiato. Al Salone di Cannes, che si è chiuso ieri, abbiamo visto un numero di italiani assolutamente superiore al passato. Molti di loro hanno preso appuntamento con i nostri concessionari per ritornare al Salone di Genova a provare le barche e speriamo concludere le loro vendite. Quindi credo che abbiamo ripreso, ripeto, nessun fuoco d'artificio, ma l'inversione di tendenza è molto molto chiara. L'industria italiana della nautica, in tutta la sua filiera, non solo la costruzione ma tutta la filiera nautica, ha nel Salone di Genova la sua vetrina internazionale. Ricordo che è l'unico salone italiano che è scritto nel circuito internazionale dei saloni nautici, ha ricevuto dal MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo che conferma il ruolo prioritario che ha nel promuovere il Made in Italy all'estero, ha ricevuto il contributo, è un alleato dall'agenzia ICE. Grazie al loro contributo riusciremo a portare un numero significativo di media e operatori stranieri a Genova. Vedo molti messaggi ancora sugli esodati. Qualcuno critica il fatto che l'abbia definito una cavolata. Non usiamo parole volgari in questo programma, quindi non è che con termine cavolata volessimo liquidare in maniera leggera quel disastro che è stata la riforma Fornero, nel non tener conto di cosa capitava a lavoratori che si sono trovati tra coloro che sono sospesi, né con l'età per la pensione e però né, diciamo, con la possibilità di restare al lavoro perché avevano accettato lo scivolo pensionistico. È stato come, diciamo, togliere la scaletta mentre ti stai prescendo dalla nave, per usare un'espressione figurata. Ora abbiamo solo detto che confondere la legge Fornero, chiamiamola anche Monti Fornero, visto che era presidente del Consiglio Monti, Monti Fornero, la legge con la persona è un errore gravissimo, ed era riferito solo alle frasi del leader della Lega Matteo Salvini. Tutto qua, la critica, la cavolata, anche perché fatta con un eccesso di spocchia, solo mesi dopo, ripeto, in diretta con noi l'ex ministro Fornero, allora ancora ministro, ammise che è stato un errore, ecco, andava gestito in un altro modo. Adesso però il traffico, e poi vediamo di capire, a partire da questi 17 miliardi di margine che il premier dice non li userò tutti ma li ho, dove si regga e cosa si inizia a capire di questa manovra che sempre Matteo Renzi ieri ha stimato in 27 miliardi di euro. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Focus Economia. Ha previsto una crescita quest'anno 2015 di 0,7. Posso dirle che nell'aggiornamento del DEF che faremo venerdì in Consiglio dei Ministri la stima della crescita passerà dallo 0,7 allo 0,9. Questo vuol dire che andiamo meglio. E gli italiani se ne stanno accorgendo. E nel 2016 abbiamo già una previsione? Fiducia. La previsione attualmente è l'1,4, sarà rivista a rialzo anche questa per correttezza, dovendo essere una stima che arriverà dai dirigenti del Tesoro, non posso dirglielo, ma sarà comunque rivista leggermente a rialzo. Manovra finanziaria da circa 27 miliardi di euro, vado così. Non abbiamo da sforare nessun conto, anzi, dal prossimo anno scende il debito. Io sono contro le politiche di austerity, tutta la visione sul rigore, però l'Italia ha un problema in più rispetto agli altri, e cioè che una classe politica intera, quella prima di noi, ha caricato i costi della gestione quotidiana sulle generazioni successive. Per le regole europee, per me eccessivamente dure, ma che noi rispettiamo, noi potremmo avere uno spazio più correttamente di deficit dell'1,4% il prossimo anno. Cosa significa? Significa che noi abbiamo un certo tot di soldi da poter spendere, ma grazie al lavoro svolto da Padoan e tutti noi che gli abbiamo dato una mano nel semestre italiano di presidenza, abbiamo la possibilità di avere fino all'1% in più, quindi 17 miliardi, fino a 17 miliardi, 17 miliardi di flessibilità. Quindi noi utilizzeremo, e non del tutto, le clausole della flessibilità. Quindi non c'è nessuno sforamento. E qui iniziano, diciamo, non i dubbi, ma quantomeno i punti interrogativi. Fermo restando che c'è qualcuno che mi critica perché ho criticato la Fornero, la legge Fornero fu fatta in emergenza dopo i conti, come lasciò il paese il governo Berlusconi. Sì, però adesso non è che si può dare la colpa, abbiate pazienza, raccontiamo quel periodo, eravamo in diretta a fine 2011. Però che sia stata fatta una cavolata pesante a danno delle persone non c'entra nulla. Berlusconi e la Lega che governavano prima hanno fatto una bestialità e punto e basta, e bisognava chiedere scusa subito e mettere subito un rimedio. Così non è stato fatto, invece di no, non è vero, no, resistenze, insomma, troppo professorali quei professori, fine. Allora, Dino Pesole, andiamo a concludere questa puntata, collega del Sole 24 Ore che da sempre si occupa di manovre finanziarie. Buonasera Dino. Buonasera. Renzi oggi ha continuato, l'ha detto anche il ministro Martina, leveranno 1 miliardo in tutto di tasse sul mondo dell'agricoltura, IMU e TASI. E poi ha detto che per i comuni l'operazione sarà paro paro, cioè riceveranno i 3 miliardi e mezzo dallo Stato a questo punto che non riceveranno dall'IMU. Qual è la cosa, diciamo, che ti lascia più perplesso? Perché noi dobbiamo stare qua a cercare di capire che cosa potrebbe non funzionare. Sti 17 miliardi di margine, a me sembrano tantissimi. Ma allora cerchiamo un po' di spiegare, perché noi abbiamo già avuto dalla Commissione Europea dei margini di flessibilità e li abbiamo già utilizzati. Quest'anno, ad esempio, sul bilancio del 2015 abbiamo ottenuto l'attivazione della clausola per il ciclo economico negativo, che vale 4 miliardi. Poi a maggio la Commissione ha già autorizzato per il 2016 un margine di circa 6,4 miliardi, quindi questi sono già acquisiti e sono già nei cosiddetti tendenziali di finanza pubblica. Io credo, ma aspettiamo venerdì per saperne di più, ma credo che il Presidente del Consiglio si riferisca alla possibilità, che in effetti c'è, perché mi sembra che sia nei numeri, che il deficit che nel prossimo anno dovrebbe attestarsi all'1,8% del PIL, beh, alla fine possa arrivare al 2,8%. E quindi ecco lì che si è spiegato questo punto di differenza. No, perché un'altra ipotesi che mi era venuta in mente è che, visto che il Premier, e devo dire da questo punto di vista non è l'unico, stima una crescita un po' più alta del previsto, non più lo 0,7 ma lo 0,9, aumentando il PIL, siccome il deficit che interessa l'Europa, lo ricordiamo sempre, è un rapporto deficit su PIL, fratto PIL, diciamo, aumentando il denominatore tu puoi avere un numeratore un po' più alto, ma non tale da giustificare questi 17 miliardi, Dino. No, direi assolutamente di no, anche perché quest'anno l'incremento della crescita è di 2 decimali, stiamo parlando dallo 0,7 allo 0,9, e dunque l'impatto sul deficit sarà limitato. No, io penso che in realtà il governo abbia una qualche idea di forzare un po' sul deficit, e qui va tutto bene se Bruxelles ce lo concede, e poi di utilizzare come arma di riserva le maggiori entrate che sono ipotizzabili da questa operazione di rientro dei capitali attraverso questo meccanismo che in termini tecnici si chiama voluntary disclosure. Dare più tempo al rientro dei capitali, sì. Più tempo, quindi vuol dire che se si riuscisse ad ottenere quest'anno almeno 3 miliardi i maggiori incassi, questi andrebbero a beneficio dei conti del prossimo anno, e quindi si tratta di mettere insieme tutti gli addendi, fermo restando che una manovra da 27 miliardi è molto impegnativa. Sì, io ricordo che le manovre negli anni scorsi viaggiavano tra i 15, 18, 20, 22, adesso vado a memoria, per cui insomma, 27 è una bella manovra, È una bella manovra, tenendo conto però che in realtà la manovra vera, quella tra virgolette destinata allo sviluppo, è in realtà di 10-11 miliardi, perché lo ricordo a chi ci ascolta, noi con questa prossima finanziaria, chiamiamola così per usare il vecchio termine, abbiamo già 16 miliardi impegnati per evitare se no scatta che l'IVA, certo. Esatto, per evitare che aumenti l'IVA, e quindi la manovra vera e propria destinata alle misure quali il taglio della pressione fiscale, le misure per il sud, eccetera, sono in realtà di 10 miliardi. Ciò non toglie che comunque è molto impegnativo fare una manovra di questo tipo, e soprattutto senza aumentare le tasse, perché ha detto il Premier non verranno aumentate le tasse. E, ripeto, figuratevi se chi vi parla difende l'idea dell'Europa del deficit al 2,8 o 2,2 o 1,9. Non è questo il punto. Bisogna vedere se l'Europa te lo fa fare, però, perché appunto un punto in più, stando sotto il 3%, vedremo se poi verrà usata la Francia come apripista, visto che la Francia è ben distante da qualunque promessa fatta all'Europa quanto a deficit. Però abbiamo capito che il grosso di questa manovra, se non vuoi toccare le tasse e vuoi levare l'IMU e fare altre operazioni, si gioca su questa maggiore flessibilità che speri di ottenere dall'Europa. Grazie Dino Pesole, è veramente tutto per questa puntata di agricoltura, di vino, perché oggi si è parlato molto anche di caporalato e dei temi che riguardano l'agricoltura. Parleremo domani, ormai lo spazio è finito. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.